Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarti. 2:32 del mattino, continua il nostro giro panoramico all'interno del nostro locale, in cui conosciamo meglio i festeggiati, conosciamo meglio tutti coloro che hanno deciso di passare, trascorrere da noi questo sabato 4 agosto. E adesso parliamo qualche minuto con questa ragazza, questa futura sposa, un po' cappuccetto rosso, perché io la vedevo in giro col suo cestino. Non voglio sapere cosa c'è dentro, perché ho intravisto delle forme che mi ricordano delle cose che mi fanno paura e che non voglio conoscere, però ho piacere a conoscere un po' lei. Allora, benvenuta intanto, come ti chiami? Valentina. Benvenuta Valentina. Grazie. A metà tra una ballerina di danza classica e una sposa, perché c'ha un vestito lungo un po' tutuoso, che sembra un po' tutù. E ti senti più ballerina o più sposa? Magari non fa neanche ballo. Più sposa. Più sposa, vedi, vedi. Bene, bene. Quando ti sposerai e con chi? 8 settembre con Mirko. Con Mirko. Allora, da dove vieni? Che è l'unica cosa, l'ultima cosa che non ti ho chiesto. Vengo da Vicenza. Vicenza, Vicenza. Allora, vuoi dirmelo cosa c'è lì dentro o devo spaventarmi? No, perché adesso non c'è più niente. Ah, perché hai fatto la Giorgio Mastrota del... Ho venduto tutto. Esatto, come Giorgio Mastrota le ha venduto. Sai cosa si dice di quelli bravi a vendere? Che sanno vendere il ghiaccio agli eschimesi. Quindi tu sei riuscita nel tuo... Esattamente. Intento. Ma si può dire quello che c'era dentro è under 18? Sì, no, si può dire. Si può per dire. I zomi. Per i zomi, ah ok. Indossati o nuovi? Tutti nuovi. Ah, sai che se erano indossati li vendevi a 5 euro in più? Vabbè, è andata così. È andata così. E ma venivano dal tuo armadio o li avete comprati in giro? No, questi qua vengono dalle mie amiche qui presenti. Ah! E vedi che si svelano gli altarini delle amiche? Ah, però, e le facevo tutte santarelline, tutte belle tranquille. Invece oggi hanno procurato tutto questo cestino. E invece qua. Ma colorato, monocromatico? Rossi e neri. E no, anche rosa. Rossi, neri e rosa. No, perché vedevo i colori dei loro vestiti, che fanno ovviamente da contraltare rispetto al tuo, tutto in nero. E pensavo che ci fosse il coordinato sulla mutanda. Invece no, c'è una scelta di vari colori. E ma c'era anche un prezzo? No, offerta libera. Esatto, offerta libera. E vabbè, hai portato a casa un po'. Sì, suona la scatolina? Suona, brava. Hai capito la nostra Valentina? Sai perché? Perché tu sei, secondo me, c'hai una capacità di convincere le persone e vendere le persone, no? Perché già lo fai nella vita. Esatto, e quindi non ti è stato difficile, anzi, secondo me tu hai proposto un decaffeinato. E invece hai dato poi un perizoma. E tu hai capito come chiamano i caffè a Vicenza? Sì. Perché nella vita cosa fai? Barista. La barista, da tanto tempo? Da 12 anni. Da 12 anni? Praticamente è il lavoro della tua vita ormai. Sì. Ti piace? Sì, sì. Ok, ok. E, però quindi barista significa sabati, domeniche? Sì, esatto. Ti pesa? Ogni settimana. Ogni tanto. Oh, fa parte del lavoro. Eh sì, fa parte del lavoro. Ma ti tocca anche fare tipo le colazioni, quindi alle 5 del mattino? No, alle 5 del mattino no, ma alle 9 e mezza sì. Ah, vabbè, 9 e mezza è dalla principessa, alle 9 e mezza. Pensavo esatto, che apriste sì, alle 6, no? No. 9 e mezza, quindi mezza. Orario comodo. Come si chiama il bar, ce lo vuoi dire? La Baita. Dove si trova? Sossano. Sossano. Ah, Sossano, scusami, avevo perso delle consonanti. Vabbè, se volete andarla a trovare, la riconoscete, è vestita di bianco e quindi potete... Non sarò vestita di bianco. Ah, no, non sarà vestita di bianco, niente, pensavo che mantenessi comunque il dress code, come si dice. Qual è il tuo pezzo forte nel tuo lavoro? Ma in generale lì al bar vino, caffè... Non c'è. Ma qual è la cosa che ti viene meglio, secondo te? Caffè macchiato. Come fa il caffè macchiato lei e non lo fa nessuno? Ma mi piace l'onestà, ora che è l'onestà. Oh ragazzi, ma è l'onestà prima di tutto. Cioè c'è un modo di dire le cose con modestia e supponenza e c'è un modo di dirle con onestà. E invece lei è molto molto onesta e sincera. Sì. Benissimo, allora abbiamo parlato delle tue amiche, abbiamo accennato. Vuoi presentarcele velocemente e dirci qualcosa di loro? Elisa, mia sorella, Alessia, Elisa, Verdiana, Alice e Mara. Ok, tutte amiche le altre? sì. Siete sole o c'è qualcun altro fuori che avete dimenticato? Soltanto voi. Soltanto voi, benissimo. E quindi diciamo tutte amiche e una la sorella, lei la prima. Sì, lei, Elisa. Ah, una bionda e la mora. Esatto. Non l'avrei, cioè, se avessi scommesso 5 euro mai avrei scommesso sulla vostro legame di sangue, quindi è bello. Ma sei mai stata bionda o lei è mai stata mora? Io bionda sì. Ah, ti sei colorata, c'è il trucco? Beh, sono naturale. Ah, ok, però sei stata bionda. Sono stata bionda. Perché la invidiavi un po'? No. Ah no? No, così. Perché volevi cioè volevi farti, volevi perché assomigliarle. Era di moda e mi piaceva. Era di moda e ti piaceva, invece adesso sei ritornata al tuo corvino, sì. Al tuo color corvino. Ok, allora vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno in chiusura? Voglio salutare tutti e salutare in particolare Mirko. Ci sta, giustamente. Giustamente. Sta facendo anche lui sarà. Non sai, ma quindi ha celibato e nubilato in contemporanea? Sì. Bene, bene, mi fa piacere che tu non sai dove sia, perché potrebbe essere qualsiasi cosa, però lo saprai, sicuramente lo verrai a sapere. Allora noi ringraziamo te, ringraziamo grazie. Tutte le tue amiche, grazie. E speriamo abbiate passato una bella serata e soprattutto grazie. Tanti auguri a Valentina, in bocca al lupo per il tuo futuro matrimonio. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao! Ciao.